Di Giovanni Minoli. E il Sunday Times a scrivere che Facebook non paga le tasse in Gran Bretagna grazie a una scappatoia che permette alla società di Zuckerberg di spedire il denaro alle isole Cayman, paradiso naturale e fiscale dei Caraibi. Su una stima di 12 miliardi e mezzo di entrate in tutto il mondo, Google avrebbe denunciato utili per appena 24 milioni di euro. Che i grandi player dell'economia digitale mondiale, che per me sono straordinari miti, perché Apple è bellissima, Google è bellissima, hanno però un sistema in cui non pagano le tasse nei luoghi dove fanno business. Allora noi abbiamo, siccome stiamo aspettando da 2 anni che ci sia la legge europea, facciamo gli ultimi 6 mesi, il primo semestre del 2016, attendendo un provvedimento europeo, ma dal 2017, già da adesso, già da questa stabilità, immaginiamo una digital tax che vada a colpire, con meccanismi diversi da quelli immaginati nel passato, proprio che vada a far pagare le tasse nei luoghi dove vengono fatte le transazioni e gli accordi. C'è un principio di giustizia sociale. Ecco, per parlare della legge di stabilità, noi partiamo da qua, con Francesco Boccia, presidente della Commissione Bilancio. Buongiorno, onorevole Boccia. Adesso si chiama Digital Tax, ma non è esattamente la sua Web Tax, tanto criticata da Renzi, che troveremo nella legge di stabilità? Buongiorno, sì, stiamo parlando della stessa cosa, pagare le tasse nel luogo in cui si fa business, era esattamente quel principio. E insomma, ha cambiato idea Renzi? Beh, segno di intelligenza cambiare idea, no? Sì, ha cambiato anche i consiglieri, si diceva che aveva troppi consigli dall'ambasciata americana, lo accusava De Benedetti di questo. Guardi, forse De Benedetti era più informato di me, probabilmente ha cambiato consiglieri e gli ha fatto bene cambiare consiglieri. Ecco, ma quali saranno i tempi di questo cambio di strategia fiscale dell'Europa? Renzi parla di 6 mesi. Io penso che non ci sia più tempo da perdere, parla di 6 mesi perché opportunamente, arrivati a questo punto, si aspetta l'effetto di questo cosiddetto progetto BEPS dell'OCSE che si è completato, i paesi principali dell'OCSE dovranno esprimersi proprio in questi giorni e o l'Europa prende una decisione nel primo semestre del 2016 oppure non ha senso più aspettare l'Europa. Ecco, ma quanto, e quindi dovremo agire da soli come ha fatto la Francia, insomma, esatto. Certo. Ecco, ma quanto potrà portare alle casse del governo questo eventuale cambio di linea? Ma guardi, oggi c'è una base imponibile rosa in Italia che va dai 20 ai 25 miliardi, quindi vale almeno 3 miliardi. 3 miliardi, che sono utili perché ne cerca 27, se non mi sbaglio, no? Beh sì, ecco. Consentirebbe di chiudere la legge di stabilità. Ecco, intanto Renzi, nella manovra che viene presentata oggi, ha sollevato molti, ci sono molte anticipazioni, una che fa discutere, poi c'è quella delle pensioni, ne parleremo dopo, è la soglia del contante a 3.000 euro. Cosa si aspetta, che aumentino i consumi così? No, i miei amici commercianti stanno esultando, non so se lei ha amici commercianti, io li ho, sono tutti contenti. E quindi una buona mossa, che secondo lei? No, è una mossa. Aiuta fatta l'evasione fiscale, parliamoci chiaro. Beh, certamente non la frena. Non la frena. Bersani ha scritto sul suo Facebook: incoraggeremmo i consumi in nero, il riciclaggio, l'evasione e la corruzione. Insomma. Beh, il riciclaggio lo si fa con cifre diverse, ormai non lo si fa con gli scatoloni di soldi, ma lo si fa attraverso flussi finanziari che vanno sulle nostre teste. No, inutile nasconderlo, per combattere l'evasione è necessario sostenere la moneta elettronica. Insomma, quindi questi 3.000 euro, alzare la soglia aiuta l'evasione. Certamente non la frena e io sono per l'abolizione della banconota da 500 euro e da 200 euro. Vabbè, senta, resti con noi, onorevole Boccia, adesso parleremo nel dettaglio della legge di stabilità, poi torneremo e commenteremo con lei. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, sigla di Dentro la Notizia. Mix 24, Dentro la Notizia. IMU e TASI sono percepiti oggi nel dibattito politico italiano come la tassa. Sarà frutto di un decennio di polemiche, per cui ha iniziato Berlusconi, avete capito bene, elimineremo l'ICI. Poi siamo ripartiti noi, poi è arrivato il governo Letta che ha fatto una discussione su questo tema, arrivando a cambiare nome alla tassa, cambiandogli, ma non riuscendo poi a trovare un criterio per cui è rimasta l'IMU per quelli che hanno la casa di lusso. Poi c'è la TASI per quelli che hanno una casa mediana. E questo meccanismo ha suscitato che cosa? L'inquietudine. Semplificare e rendere più chiaro il meccanismo è la precondizione della ripartenza economica. E questo è anche il motivo per cui l'IMU e la TASI devono andare via per tutti per sempre. Ecco, la nostra domanda dunque oggi è: la legge di stabilità rappresenta una svolta o no? Cioè, aiuterà la ripresa? Mario, perché intanto si chiama legge di stabilità, brevemente? In realtà è la vecchia legge finanziaria, parliamoci chiaro. Hanno cambiato il format, le date di presentazione. Prima si presentava a metà settembre, oggi si presenta a metà ottobre. C'è un documento preparatorio, come c'era anche prima in realtà, che è il DEF, e poi ci sono che dà le linee, diciamo, sì, della politica economica, e poi ci sono i provvedimenti. Ma le cose vanno bene o male con questa legge di stabilità che inizia oggi il suo percorso? Allora, cioè, a mezzogiorno c'è il Consiglio dei Ministri, alcune cose le stavate anticipando adesso anche con Boccia al telefono. Naturalmente c'è un grande enigma riguardo ai tagli, tra un po' li vedremo. Infatti ne parleremo di questo, perché ce ne sono poche tracce, le sue incertezze. Comunque noi aggiungiamo quelle dell'ex ministro delle finanze Vincenzo Visco. Ecco, professor Visco, cosa le piace, cosa non le piace della rotta che sembra stia prendendo la legge di stabilità? Sicuramente è positivo il fatto che si possono eliminare le clausole di salvaguardia, cioè questi aumenti indiscriminati di IVA e accise che erano previsti. Per il resto non lo so. Che cosa non le piace assolutamente? Ma sicuramente l'abolizione della TASI, che non sta né in cielo né in terra. E prenderla dalla parte sbagliata, secondo lei? È una cosa inutile, uno spreco di risorse, ci sono tante altre priorità. Senta, ma come giudica i risultati della lotta all'evasione, 12 miliardi che sono in crescita? Fin dove si può arrivare? Ma guardi, intanto bisogna capirsi su cos'è la lotta all'evasione. Quei 12 miliardi lì sono semplicemente risultati degli accertamenti, che è la parte residuale dell'attività dell'amministrazione. Ma la lotta all'evasione si fa con altri strumenti. E cioè? Nella ultima legge di stabilità il governo ha inserito un paio delle proposte che noi avevamo fatto al NENS, come appunto lo split payment e il reverse charge. Cioè? Che in alcuni casi l'imposta la paga chi riceve la fattura e non chi la emette, sostanzialmente. Ma lei oggi cosa introdurrebbe nella legge di stabilità subito, di sicuro, con chiarezza? Su questo tema c'è semplicemente l'obbligo per tutti i contribuenti di fare la comunicazione delle proprie fatture al fisco contestualmente all'invio al cliente. E come iniziative invece più generali, che cos'è che assolutamente manca? Manca qualsiasi strategia appunto in materia di recupero di evasione. Questa semplice proposta che io sto facendo, oltre a semplificare molto la vita, farebbe recuperare 40 miliardi, che non sono pochi. No, cioè, questa è la vera lotta all'evasione. Poi ci sono 40 miliardi recuperati con un semplice invio telematico al fisco, oltre che al proprio cliente, delle fatture, in modo che c'è una simultaneità tra emissione fattura e detrazione della fattura. Questo evita tutta l'evasione che oggi avviene attraverso il fatto che la gente fa le fatture ma poi o non dichiara o non paga, e sono cifre enormi. E questa cosa è stata prospettata al governo più volte e il governo non ha mai avuto il coraggio di farlo. Perché, secondo lei? Ma perché protegge qualcuno, l'evasione? Diciamo che in un paese in cui l'evasione è di massa, il consenso passa anche attraverso una tolleranza sulla. Quindi in qualche modo il governo protegge l'evasione, insomma. Il governo è preoccupato delle reazioni che ci possono essere. Vabbè, senta, mi dice ancora una cosa, chi trae vantaggio dal taglio delle tasse sulla casa? Io e lei. Io e lei, bene, perché abbiamo un reddito. Immagino lei abbia una casa, di qualche valore, anch'io ce l'ho. E dato che quella è un'imposta sul patrimonio, chi ha un patrimonio più maggiore dovrebbe pagare, se no guadagna di più. Sì. Senta, un'ultimissima cosa, la legge di stabilità rappresenta una svolta o no? Mi pare di no, secondo lei. Ma una svolta, perché ci fosse una svolta dovrebbe cambiare la politica europea. La legge di stabilità si cerca di utilizzare i margini che ci sono, sperando che le cose vadano bene. Insomma. Quindi in questo senso diciamo è un compromesso con l'Europa? Sì, ammesso sempre che l'Europa dia il via libera. E che ci sia? Sì, perché non si sa bene se questi margini di flessibilità ci saranno. Ecco, onorevole Boccia, 40 miliardi recuperati con la proposta Visco, lei è d'accordo? Sì, sono d'accordo, quella è una delle strade possibili. Beh, 40 miliardi, ne cerchiamo 27, ne avremo tanti da spendere, E da redistribuire. È il nostro obiettivo vero. Ho capito, con la TASI e l'IMU a casa sua e a casa di Visco non redistribuiamo nulla. A casa sua anche forse. A casa mia. Vabbè. La mia è un po' più piccola. Vabbè, comunque questi 40 miliardi perché no? Perché non così? Perché non accettare questa proposta? Penso che il primo ministro non l'abbia accettata, semplicemente lui ha il suo staff di consiglieri con il quale ha lavorato in questo anno. Non sono su questa linea. Ma no, guardi, in questo momento penso la linea economica stia dando Gutgeld, che ha dato tanti consigli a Cottarelli e non riesce ad applicare gli stessi consigli a se stesso. A Cottarelli però non è che i tagli delle tasse siano così evidenti, cioè la spending review mi sembra piuttosto ferma, no? No, la spending review si profila come un fallimento. Appunto, con quattro commissari che si sono succeduti uno all'altro, ma alla fine non si capisce dove si va. Sì, devo dire, i tre precedenti erano tre tecnici che avevano messo sul tavolo dei presidenti del Consiglio dei tagli netti, pesanti. Se si ricorda, da Bondi lo stesso Giavazzi, che non era la spending ma aveva proposto di tagliare molti degli incentivi fiscali alle imprese, a Cottarelli, a Giarda ancora prima, aveva messo sul tavolo del Presidente del Consiglio tagli dai 10 sempre ai 20, 23, 24 miliardi. Poi, poi non si sono fatti, insomma, alla fine questi tagli non si fanno. In questo caso il commissario alla spending è un politico, è il consigliere economico Presidente del Consiglio, che aveva promesso di far 10 d'accordo. Miliardi, secondo me servono almeno 15, perché 15. Così li abbassi bene le tasse, li abbassi davvero fare distribuzione. Vabbè, lei dice che l'abbiamo presa dalla parte sbagliata, insomma in fondo è d'accordo con Visco? Sulla spending non c'è dubbio, sulla proposta Visco io penso che si debba allargare, come abbiamo detto all'inizio di questa trasmissione, anche alle imprese dell'economia digitale. Ecco, resti con noi, Pietrangelo, stiamo parlando di economia, finanza pubblica, insomma parole anche complicate. Quanto capiscono i cittadini di temi che sembrano e sono così complessi? E c'è anche un momento in cui i cittadini vengono presi in giro. Ha ragione Boccia, la spending review è un fallimento totale. Vi ricordate quando fecero credere che avremmo risparmiato con le auto blu, quella buffonata di metterle in vendita? Comunque io a questo punto, siccome la discussione è complicata, propongo di sciogliere il dilemma con una canzone. La stabilità ci uccide insieme. E la stabilità è di un gruppo ligure, sono i numero 6, però siccome io sono ligio alla scaletta e alla tua domanda, io ho interpellato Diego Fusaro, me ne vado al bar e me lo faccio spiegare da lui, che è un filosofo, le sa dire meglio di me. Se io dovessi in un bar spiegare a un amico conoscente come funziona la legge di stabilità, direi così: in apparenza è una rivoluzione totale che sembra confermare le aspettative del popolo e segretamente in realtà è una fregatura generale. L'astuzia del capitale sta in questo, sta nel fatto che queste riforme non le avrebbe mai potute fare la destra, perché subito sarebbe stato evidente di cosa si trattava, cioè di riforme di destra in senso neoliberista. Il capitale è astuto perché le fa fare alle cosiddette sinistre oggi. E infatti non è un caso che oggi la distruzione dei diritti sociali, la legge di stabilità, venga fatta dalla sinistra, quasi come se gli schizzi di sangue dei lavoratori e dei precari, degli anziani e dei disoccupati si vedessero meno sul grembiule rosso. Ecco Mario, destra, sinistra, lo sentiamo, alla fine però è sempre la casa al centro dell'attenzione. Perché? Perché la casa è facilmente accertabile, tanto per cominciare, come cespite si dice, no? Quindi l'82% degli italiani hanno la casa di proprietà, è facilmente accertabile e dunque facilmente tassabile. In passato si è fatto sempre così, sostanzialmente, dalle manovre di emergenza di Amato in poi. Vale per tutti. Vorrei ricordare, Giovanni, che fu Amato a introdurla quando l'Italia stava nella bagna, dicono, a Cagliari, cioè eravamo veramente messi male. Vabbè, facciamo un piccolo ripassino su questa cosa dell'IMU dell'ICI. Per noi la casa, la prima casa, è sacra, come è sacra la famiglia. Per questo aboliremo l'ICI. Avete capito bene? Aboliremo l'ICI su tutte le prime case e quindi anche sulla vostra. E allora nel nostro primo Consiglio dei Ministri delibereremo la restituzione dell'IMU sulla prima casa pagata dai cittadini nel 2012. Onorevole Boccia, insomma Berlusconi e Renzi la stessa cosa dicono. Sì, sull'IMU evidentemente sì. Senti Mario, ma puoi riassumere rapidamente il quadro della manovra allora, in pillole? A mezzogiorno Consiglio dei Ministri, discussione non troppo lunga, credo, perché ne hanno avuto il tempo. Dopodiché quattro punti importanti, che saranno i titoli delle slide di Renzi. Si dice Italia forte, Italia semplice, Italia giusta, Italia orgogliosa. In sintesi, IMU e TASI, quindi via tassazione sugli immobili, la casa. Un po' di riduzione delle tasse per le imprese, meno di quanto era previsto. Libertà dei veri comuni di spendere l'avanzo di amministrazione, eccetera. L'innalzamento a 3.000 euro che hai citato. Abbiamo detto. Canone RAI che è un busillis, quindi non credo si farà, eccetera, eccetera, eccetera. Fatturazione elettronica e così via. Un po' di lotta alla povertà infantile, provvedimenti sul servizio civile e poi poco 500 sud. Docenti universitari, poco sud. Il sud mi sembra niente ai tagli. Per fare la sintesi definitiva è una manovra in deficit. Ecco, Pietrangelo, poco sud, sud sempre più dimenticato? Sud mai, nelle parole di Matteo Renzi non c'è mai e io a questo punto esigo un bel sottofondo musicale. Carmagnola! Ora e sempre Carmagnola, questo è l'inno dei sanfedisti e mette in chiaro tante cose. Il signor governo, per esempio, credo non sappia una notizia, cioè che il sud è abitato da un'infinità di meridionali che sono anche possessori di casa e pur essendo possessori di casa in quella casa hanno un ostacolo e il signor governo non sa, e glielo faccio sentire a colpi di Carmagnola, che moltissimi meridionali hanno letteralmente scoperchiato le loro case, cioè hanno tolto le tegole per non pagare l'IMU, perché soldi non ce ne sono. Carmagnola. Allo suonare tamburiel, sorriso tra i poveri. Allo suonare campana. Onorevole Boccia, sentito, Senta, ma il sud è fuori da questa legge di stabilità? No, il sud deve esserci. No, deve esserci, ma pensa che ci sia? Io penso di sì, penso che ci sarà una delle contribuzioni. Abbiamo sentito di parlare di 2 miliardi, sono cifre vere o no? Guardi, il Sud ha i suoi soldi, deve essere messo nella condizione di spenderli. Io sto facendo una battaglia da oltre un anno per obbligare le regioni e i ministeri che hanno i soldi del sud a fare un passo indietro. Aboliamo i bandi discrezionali, togliamo tutte le inutili commissioni o i politici che decidono per conto delle imprese e diamo diritti automatici. Chi assume allo sconto fiscale, chi compra macchinari al credito d'imposta, chi investe in ricerca al credito d'imposta. Se facciamo questo il Sud va avanti da solo, perché io penso che i giovani del Sud e gli imprenditori del Sud che ancora ci credono siano molto più avanti delle discussioni che facciamo noi sulla legge di stabilità. Ecco Mario, tu sulla legge di stabilità, l'hai detto prima, l'hai accennato, una perplessità ce l'hai sulla digital tax. Io, sì. Perché? Perché in realtà c'è uno stravolgimento a mio avviso. Il fatto è che non si tassano i fatturati, ma si tassano gli utili, e le grandi corporation gli utili li fanno poi in capo alla società madre. È giusto far pagare di più, ma non è una soluzione. Io sono convinto che anche Boccia la pensa così, che tu trovi in sede nazionale. In sede nazionale non funziona. Solleciti solo una cosa, i flying capitals, cioè i capitali volanti. D'accordo, se ne vanno. Abbiamo detto, capito? Che il problema è un problema principale, quello della legislazione europea armonizzata. Sì, sì. Però il principio è un principio da stabilire, d'accordo Boccia? Il principio è giusto. Beh, lei lo pensa, lo strapensa, mi pare, no? Il grimaldello vero è far saltare questo principio che regge da 23 anni della non stabile organizzazione. Certo. Penso che nel 2015 un'azienda che fattura centinaia di milioni di euro, in alcuni casi qualche miliardo, anche se ha solo 100 persone, debba ritenersi stabile organizzazione in un paese in cui fa business. Ecco, e allora parliamo, prima di chiudere, parliamo delle pensioni, perché è un tema che abbiamo lasciato per ultimo, ma è forse il principale. Si va in pensione prima, non si capisce bene come, ma insomma lo sapremo a mezzogiorno con un part-time, un taglio dell'assegno ancora da stabilire, forse 3-4%. Sì, è una misura transitoria. Dai, hai capito. Qualche dettaglio tu, Mario? Si va sostanzialmente, c'è l'opzione, ci deve essere un accordo tra datore di lavoro e dipendente per andare in pensione prima. Si lavora con un part-time, l'azienda ti versa tutti i contributi. Tutti ci scrivono per le pensioni. L'azienda ti versa Sandro tutti i contributi, d'Alessandria. Naturalmente, però è chiaro che è una manovra, diciamo, fatta in attesa di una riforma più grossa. Ma rispetto alle pensioni di invalidità, per esempio? No. Non mi pare sia previsto. Ma hai un esempio da fare per far capire qualche cosa? Noi avevamo un esempio per la dissimulazione su una pensione di flessibilità in uscita, diciamo piena. Che ne so, su una pensione di 20.000 euro lordi l'anno, il taglio ipotizzato nelle prime stime era di 42 euro al mese. Quindi, se tu hai una pensione netta di 2.272 euro netti, questo diventa di 1.230 euro. Quindi è un taglio reale sopportabile, 3,3%. Per chi ci vuole andare. Il problema è che non c'erano i soldi, e quando hanno fatto queste simulazioni, diciamo, poi sono stati per ora accantonati. È chiaro che però nel 2016 probabilmente faranno dei provvedimenti che vanno in questa direzione. Onorevole Boccia, le risulta? Costa molti soldi. Le risulta? È una misura transitoria, esatto. Un ponte verso un provvedimento di flessibilità in uscita che dovrà essere fatto. Aggiungo solo una cosa rispetto a tutto quello che abbiamo detto. Sì. Questa manovra è l'ultima legge di stabilità della storia della Repubblica, nel senso che la stabilità con il 2016 va in pensione. Perché? Dall'anno prossimo avremo finalmente, dopo anni di battaglie, insomma, si completa la riforma del bilancio dello Stato, si armonizzano anche i bilanci degli enti territoriali con quello dello Stato centrale, quindi parleranno la stessa lingua, sarà possibile finalmente controllare e buttare a fuoco il bilancio della Regione Sicilia con non rido. Scusi Boccia, ma io infatti riflettevo su questo: se a Milano con la sanità lombarda si procede agli arresti, ed è la sanità lombarda, in Sicilia bisogna andare con lanciafiamme, no? Con l'esilio. Dico questa cosa e chiudo. È l'ultima legge di stabilità, finalmente, perché è farraginosa, perché ha due documenti, il disegno di legge bilancio, insomma la legge di stabilità stessa. Io penso che potrà essere ricordata e disvolta se fissa alcuni principi chiari sul percorso di riduzione delle imposte. Su questo sono d'accordo con Renzi, ma devono essere principi chiari e che vincolano in maniera pluriennale il bilancio degli anni prossimi, non solo con le clausole di salvaguardia, ma con un impegno serio alla riduzione soprattutto dell'IRPEF e dell'IRES. Se facciamo questo, svoltiamo, altrimenti sarà propaganda. Senta, onorevole Boccia, la ringrazio. Intanto sulla pensione lei sta tranquillo, no? Tagli per lei non ce ne sono. Sulla pensione? Sì, quando andrà in pensione, 67 anni, tranquillamente. Il sistema contributivo è senza vitalizio, quindi Sì. Devo lavorare fino a 60, secondo me fino a 70 anni, visti i tre figli. Sente, beh, grazie. Non me lo pongo il problema. Grazie, onorevole Boccia. Tu, Pietrangelo, in pensione? È un tasto dolente, ho fatto il calcolo. Insomma, la generazione dei cinquantenni, questa benedetta pensione non la può maturare per un semplice motivo. Non c'è lavoro. Non c'è, quindi, tu Mario manca quello. Io sono come Pietrangelo, non ci penso, ma il giorno che arriverà sarà così. State ascoltando un programma offerto da ADHR Group, agenzia per il lavoro, multisoluzioni per le tue risorse umane. Mix 24. Molti, moltissimi sms dei nostri ascoltatori, commento sull'anticipazione della legge di stabilità, critiche oppure richieste di chiarimenti. Addirittura uno dice: vorrei spiegare come molti miei colleghi fanno nero sfruttando il limite dei 1000 euro. A 3000 non sai quanto possiamo arrivare. Poi quei 1000. No, tu, sì, io ho ricevuto un messaggio da Fronterre, giovane professionista ingegnere a Torino, che fa un'obiezione a Boccia. I giovani del sud sono al nord. Migrano. Non solo. Canzone. She laid her head on my chest as the sun burned down the west. There's one thing we still got. Allora, Pietrangelo? E perché allora Giovanni oggi non voleva saperne di sorgere il sole? Perché c'erano gli ultimi rimasugli dell'estate, poi c'erano le fotografie delle stagioni e tutto quel sentirsi lontano degli innamorati separati dai giorni, tutto quel cuore nella tenebra. E oggi quindi è sbucata la luce, ha fatto un brillio. Invece che cos'era? Era una lacrima di Andrea Sperelli. Io l'ho incontrato per strada arrivando qui e lui mi ha fermato con questa sua lacrima e mi ha detto di dedicare questa canzone a Elena Muti. Il piacere di Gabriele D'Annunzio. Poi mi riveli chi ti ha suggerito questa canzone. Vai, che l'ho già detto, Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio, certo, come no. È lui, D'Annunzio, sempre. Che monta a cavallo con fanatismo futurista. Senti, la tua bolla cattiva, Mario? Vabbè. Noi oggi proviamo sulle note di Rocky, colonna sonora scritta da Bill Conti, a dare disinteressati consigli a Matteo Renzi. Perché allora, Marino pedonalizza i fuori, Giovanni. Sì. E uno si chiede: ma non se n'era andato? Non ancora, 17 giorni ancora tempo. All'addio. E non è detto, ma insomma, lui continua nella sua opera educativa, rieducativa, indimenticabile senza dubbi per tutti i romani. Adesso, voi, lui pedonalizza, bisogna chiedere agli abitanti di quella zona, via Merulana, fino a Monti addirittura, se sono contenti. È stato un disastro in questi mesi colossali per il commercio, eccetera, però va bene. Mi chiedo, allora, Marino fu scelto con il metodo assai democratico delle primarie. Vinse il peggiore, questo ormai è chiaro a tutti. Allora, io mi chiedo, ma davvero Matteo Renzi vuol rifare le primarie a Roma. Il mio modestissimo parere è che non vadano fatte. Vabbè, e lui è stato eletto con le primarie. Capite, allora, cioè, ma vince di nuovo Marino. No, vince di nuovo un Marino, ho paura. Non so, tu sei favorevole. No, io sono favorevole a fare una precisazione. Una precisazione in relazione al salamino che abbiamo fatto ieri sulla questione Mattarella Caruso. Vorremmo appunto precisare che la famiglia Mattarella da tempo è disponibile a rinunciare al risarcimento in cambio del ristabilimento della verità, che non esiste nessuna nota da pubblicare pubblicata sul sito della Longanesi che riguarda la causa tra il Mattarella e il giornalista Alfio Caruso, ma soprattutto la Cassazione nel 1973 ha confermato la sentenza nella quale si legge che Bernardo Mattarella, che è il padre del Presidente della Repubblica attuale, non è mai entrato in contatto con l'ambiente mafioso, da lui invece apertamente e decisamente osteggiato, sono parole della Cassazione, nel corso di tutta la sua carriera politica. Questo per quanto dovevamo. Jean-Claude Bourret, che in seguito sarà uno dei suoi collaboratori in Francia, ha ricevuto dal dottor Berlusconi degli ottimi suggerimenti per sfondare in campo pubblicitario. Mi disse, io ho degli specialisti che girano l'Italia e questi signori sono incaricati di trovare le scatole dell'Audimat che servono per conteggiare i dati Auditel. Quando trovano le persone che possiedono il trasmettitore Audimat, allora dicono, buongiorno, siamo di Canale 5 di Berlusconi. Voi avete un vecchio televisore, ve ne offriamo uno nuovo, splendido, più 500.000 lire per il consumo elettrico. Poi, come contropartita, gli chiediamo di lasciare acceso il loro vecchio televisore 24 ore su 24 su Canale 5. E Berlusconi concludeva, questo fa salire gli ascolti. Siamo le famiglie dell'Auditel. Ecco l'Auditel. Mario Abis, professore dello IULM, presidente della Macno Ricerche, una delle prime società che in Italia ha fatto ricerche e sondaggi. Professor Abis, l'Audigate, che colpisce il sistema di rilevamento degli ascolti televisivi, segna la fine di un'epoca? Segna, se non proprio la fine, il fatto che un'epoca è un po' al tramonto e bisogna cambiare velocemente. Perché? Perché il mondo dei media, che, rispetto al quale l'audit è stato a suo tempo, ricordiamo che l'audit ha una trentina d'anni o giù di lì di vecchiaia. Ma si è aggiornato sempre, no? Si è aggiornato in parte, ma nel frattempo i media sono cambiati in maniera molto più veloce dell'aggiornamento dell'audit. Oggi i media non sono più delle cose verticali, la radio, la televisione, i giornali, ma attraverso soprattutto l'evoluzione del digitale e della convergenza sono diventati un sistema completamente diverso rispetto a quello che l'audit all'inizio ha cominciato a misurare. Ecco, ma un sistema pubblicitario che investe 4 miliardi di euro sulla base di questi dati rischia allora di saltare? Rischia di essere compromesso o comunque di avere dati poco efficaci e poco affidabili. In sintesi, oggi non basta più contare le teste, contare la numerosità dei pubblici, dei target, la cosa che interessa agli investitori pubblicitari, ma interessa capire anche qual è il valore di questa relazione con i media. Ci sta passando da una misurazione di un consumo passivo a qualcosa di molto più complesso. E chi lo può fare questa misurazione? L'Auditel o un altro soggetto? Così come è organizzata adesso, attraverso un rapporto di misurazione col media tradizionale e verticale, non lo può fare. Bisogna cambiare completamente i modelli di analisi, gli indicatori che vengono analizzati e vengono definiti. Tanto per fare un esempio, oggi è fondamentale capire il valore dell'attenzione che il pubblico ha rispetto alla sovraesposizione di tanti media. Non conta sapere quanti, ma anche come si relazionano i media. Ecco, ma si può restare 15 giorni, come è stato deciso, addirittura 6 mesi, come si ipotizza, senza dati? Ma è un fatto completamente nuovo. Io credo che sia difficile rimanere senza dati, però attenzione, moltissime aziende, soprattutto i grandi gruppi, di fronte alla trasformazione del mondo dei media, legato alla convergenza, al digitale, tutte queste nuove trasformazioni che ben conosciamo, si stanno attrezzando autonomamente. Il rischio è che alla fine, se il processo di cambiamento non viene accelerato, i grandi gruppi si organizzano per i fatti loro, i grandi gruppi industriali, i grandi investitori, e rimangono al palo tutta una serie di piccole e medie aziende che hanno bisogno di questi strumenti. Senta, ma scandali sulle famiglie Auditel però sono ricorrenti, ne sono capitati tanti, non solo in Italia. Perché questo è più grave degli altri? Questo è più grave degli altri apparentemente, perché ancora la cosa non è del tutto chiaro, perché se emerge il fatto che il tracciamento delle famiglie in generale rimane, non è più tutelato, non è più garantito dall'anonimato, dalla riservatezza, allora lei capisce che non è solo l'influenzamento, come avveniva nel passato, di un gruppo di famiglie vicino a un ripetitore o quant'altro, ma è proprio il sistema che non funziona più ed è sostanzialmente aggredibile. È come se un sito riservato improvvisamente venisse sottoposto a, diciamo, all'invasione attraverso gli hacker, ecco. Quindi tutto il sistema che rischia di saltare. Certo, ma può esserci un rapporto con l'arrivo tra pochissimo di Netflix in Italia, un'altra struttura che richiederà di essere misurata? Così, diciamo, più univoca relazione. Sicuramente il fatto che vengano fuori dei player completamente nuovi e molto potenti può creare un ulteriore elemento di disturbo nel mercato. Diciamo che questo tema si era già verificato un po' con Sky, in sostanza. Esatto, però era stato risolto con Sky. È stato risolto, insomma, apparentemente. Diciamo che se vengono fuori nuovi player importanti in un sistema già così fragile e, diciamo, dal punto di vista della misurazione, è evidente che questo può produrre un collassamento a tendere del sistema. Ecco, se volete insultarci, scrivete pure degli SMS, ma firmateli, noi li leggeremo. Salamino! Urge aggiornare il piritollese, la lingua piritolla ha una nuova locuzione, tenetevi, si dice Dream Team. Ai tempi di Silvio Berlusconi, lo ricorderete, imperante, che cosa c'era? Oh, ecco, ai tempi del Cavaliere c'era il filo interdentale della divina Nicole Minetti e la lingua batteva il ritmo della festa e la locuzione allora era briffare, da briefing, ossia in lingua piritolla, preparare il rodeo festoso. E lì venivano convocati gli esperti e le esperte che preparavano alle serate. Di questi tempi invece, per dirla con Francesco Merlo, dove impera il Renzi English, la password è Dream Team ed è subito sogno, perché questo Dream Team dovrebbe essere una sorta di squadra di squadristi del sogno, ecco, e il capo manipolo che è venuto fuori tra sogno e veglia e che veglia sui sogni veglianti di Roma. Non è questo, che c'entra? Allora, il capo manipolo che veglia e che sogna sui veglianti sogni di Roma. E domani Roma rinascerà più bella e più superba che pria. Sapete chi è? Sapete chi è? Allora, la squadra prevede la presenza di Matteo Renzi, ovviamente. Poi Angelino Alfano, ministro dell'interno e dei sogni. Quindi il nuovo eroe, che è Franco Gabrielli, intervistato proprio da Merlo oggi su Repubblica, che parla di sé, di quel che farà a Roma. Cosa farà a Roma? Farà quello che diceva Petrolini, più bella e più forte che pria. Parla di Brecht, di Amleto, del padre autista di Pullman, e poi uno a un certo punto si spiega perché Ignazio Marino è fallito, perché non aveva il Dream Team, ma allora, dato che Marino è morto e spiaccicato politicamente, sì, Dio ce ne scampi, io gli dedico questa canzone, Sogni d'anarchia. I sogni, l'anarchia, i miei sogni d'anarchia. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Dopo la prima selezione, entrati in baracca e vediamo questa tragedia, eravamo state tosate, pelate, numerate. Ma eravamo inebetite, forse, 2 giorni al collegio militare, 6 giorni di viaggio senza mangiare, inebetite, fino a che la sera siamo entrate nelle baracche e dalle prigioniere che vedevamo schede, dicevamo che sono uomini, donne, non capivamo chi erano. E purtroppo ci raccontarono la triste verità, quello che era il campo di Auschwitz. Ci parlarono di forni crematori, di fucilazioni. E noi diciamo, ma questa è gente pazza, gente, vedi, ti ho detto che qua è pazzia, qua siamo all'inferno. Purtroppo invece l'abbiamo subito constatato qualche giorno dopo, quello che ci hanno raccontato subito era vero. Ascanio Celestini, tu hai conosciuto Settimia, Spizzichino che parlava prima, l'ultima testimone della razzia del ghetto di Roma? Sì, sì, l'ho conosciuta, conoscevo lei e ho incontrato altre persone, Shlomo Venezia, le sorelle Bucci, Sammy Modiano, sono stato anche ad Auschwitz con loro. Sì. Ecco Ascanio, nel tuo lavoro Saccarina 5 al soldo racconti la storia del ghetto di Roma e quello di Lodz insieme, perché insieme? Perché in realtà sono due posti diversi, ma che sono, come dire, imparentati. Il ghetto di Roma è un ghetto antico, un posto dove gli ebrei sono stati reclusi per tanto tempo, con le mura e con le porte, ma anche in senso antropologico, mentre invece il ghetto di Lodz o Uc è stato un ghetto moderno, un ghetto del Novecento, dove gli ebrei che erano reclusi lì dentro vivevano in una sorta di anticamera della camera a gas. Ecco, il 22 ottobre uscirà nelle sale il tuo nuovo film Viva la Sposa. Che tappa rappresenta nella tua carriera? Beh, io in Viva la Sposa racconto un altro luogo che ovviamente non è un ghetto, ma che da un certo punto di vista è anche un parente di quel ghetto, che è un luogo dal quale non si esce, non perché ci siano delle mura e delle porte, ma perché è un po' come il fondo dell'imbuto, non si riesce a aprirne fuori. È una borgata. Viva la Sposa racconta di una storia di un gruppo di persone che vivono in maniera molto fatalista la propria vita, la propria condizione, e girano attorno ad un bar come le falene attorno alla lampadina. Ecco, noi raccontiamo quel 16 ottobre del 43, quel sabato nero, la memoria, i testimoni, le emozioni a Mix 24, il giallo della storia di quel sabato nero, dopo il giornale radio. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Mix 24. E prima di finire con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. The Lancet, 29 agosto 2015. La malattia di Parkinson. Che cosa ci dice Lancet sul Parkinson? Lancet fa una review generale sul Parkinson, che, come sapete, è la seconda malattia degenerativa del nostro cervello, seconda solo alla malattia di Alzheimer. Malattia che colpisce un mucchio di gente, ricorderete tutti il Parkinson devastante di Giovanni Paolo II. La caratteristica della malattia sono i tremori, la rigidità, la faccia amimica, si dice, è una faccia che non ha più espressione, che diventa anch'essa rigida. La review del Lancet, la rivista, ci dice che ci sono due tipi di malattia, una con appunto questo tremore, rigidità e amimia della faccia, la seconda che non ha tanto tremore e rigidità, ma più che altro una spossatezza, un'alterazione dell'olfatto, la depressione, la facilità a collassarsi. La prima è una malattia con una storia più lunga rispetto alla seconda, ma i ricercatori ci dicono che forse sono due malattie diverse, anche perché le alterazioni del cervello sono anatomopatologicamente diverse. Quali possono essere intanto le cause? Non si sa. Sono stati messi in campo i traumi, l'utilizzo dei pesticidi, ma sono tutte robe vaghe, anche se sembrerebbe che alcuni stili di vita non proprio consoni, come il fumo, l'alcol, il caffè oppure l'utilizzo di antinfiammatori, abbiano un'azione protettiva nei confronti della malattia. Prendiamo questi dati con le pinze. Quello che è certo è che la malattia sta esplodendo, perché dopo gli 80 anni con l'età esplode. E allora finiamo con quella che è la terapia. La terapia è dare dopamina, che è il neurotrasmettitore che manca, ma darlo quando si vede che la mobilità del paziente è fortemente diminuita, perché sennò prima prevalgono gli effetti collaterali. Il messaggio allora: fate la dopamina, fate l'L-dopa, ma quando vedete che camminate male. E per chiudere una canzone d'amore, Sentimento degli Avion Travel. Ma noi chi siamo? Che ci facciamo? rosa vendiamo delle cose che più amiamo. Resta nessuno in mezzo al mare, con la paura ogni tanto di affogare. Diceva Ulisse, chi non fa la strana idea che